benvenuti a tutti e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati su questa radio, la frequenza è quella degli 87.9 e oggi è giovedì 23 marzo, sono le 15:01 e inizia Tracce di Cinema. Fede, oggi il film del disimpegno, mi hanno detto. Bella questa. Sì, il film del disimpegno può essere. A suo tempo creò proprio delle fazioni, insomma. Sì. E può darsi che abbia creato delle fazioni e sia il film del disimpegno, ma è uno dei film più celebri nella storia del cinema. Pochi brani hanno avuto una vita lunga in discoteca come quelli tratti dall'album della colonna sonora di questo film. Posso dirti subito che 3 di questi brani sono sul mio cellulare. Dai. Io non ce n'ho neanche uno sul cellulare di questi. Però insomma sono famosissimi, sono anche molto belli, sono stati anche un po' inflazionati, se vogliamo, perché sono stati suonati tantissimo nelle radio. Stiamo parlando di La febbre del sabato sera, film del 1977 diretto dal regista John Badham, che lanciò l'attore John Travolta. Iniziamo con la musica, ma prima di farlo io voglio dedicare la trasmissione di oggi a un amico, Paolo, e a Lula. Voglio dire buon viaggio. We'll be right back. You Should Be Dancing erano i Bee Gees, che sono una delle colonne portanti del film. Sì, sì, la colonna sonora che è stata pubblicata una settimana prima dell'uscita del film, ma che è subito salita nel primo posto della classifica nel 1977, è stata scritta dai fratelli australiani Barry Robin e Maurice Gibb, meglio conosciuti come Bee Gees, e fanno sentire la loro voce nella parte finale del film, nella parte iniziale. Questo pezzo viene suonato, è la scena in cui John Travolta balla da solo nella discoteca Odyssey. E sì, la colonna sonora è stata fatta da loro, ma insomma compaiono tantissimi artisti importanti per quel periodo, naturalmente dai Kool & The Gang, KC & The Sunshine Band, MFSB, Yvonne Elliman, The Tramps, David Shire e Walter Murphy. E quest'album, che è stato uno dei più venduti della storia delle colonne sonore, ha venduto oltre 40 milioni di copie, e fino all'uscita di Thriller era stato in assoluto l'album che aveva venduto più copie in assoluto. Ha vinto tantissimi premi, tra cui 15 dischi di platino, il Grammy, vabbè, insomma tutti i premi possibili, immaginabili, c'è una lista di 2 pagine, non ve li leggo tutti. Tavares, More Than a Woman, che c'è anche nella doppia versione. Sì, sì, sono 2 versioni nell'album, quella originale dei Bee Gees e questa un po' più black. Black dei, yeah, dei Tavares. Piccola correzione: i Bee Gees no, non sono, cioè hanno vissuto in Australia a lungo, sia chiaro, ma sono dell'isola di Man, sono nati nell'isola di Man, sono, si sono trasferiti in Australia con la famiglia, hanno avuto i primi successi proprio proprio lì e poi sono ritornati in, in Inghilterra. Ma insomma la biografia dei, dei Bee Gees non, non è che mi, mi interessa tanto da raccontare. Non è emozionante. Non, non è emozionante, niente di che. E, invece i Tavares sono un gruppo musicale che ha avuto un grande successo negli anni 70 a cavallo del movimento disco, quindi hanno fatto soprattutto pezzi insomma di questo genere e sono anche loro come i Bee Gees cinque fratelli, cioè i Bee Gees erano tre fratelli, loro sono cinque. Mm-hmm. Però sono di origine capoverdiana. Invece per quanto riguarda il film, il soggetto, Fede, forse tu non sai. Sicuramente non lo so. Che nasce da un articolo del giornalista Nick Cohn apparso nel 1975 sulla rivista New York Magazine intitolato Riti tribali del sabato sera. Cohn si arricchì vendendo i diritti del suo articolo al produttore Robert Stigwood, ma a distanza di 20 anni si scoprì che le cose non erano andate esattamente come lui aveva raccontato. Infatti lui aveva raccontato di essere stato in questa discoteca ed invece non c'era mai stato, era scappato, appena entrato gli avevano vomitato addosso e se n'era andato, capendo che forse non era un posto per lui, però si era inventato questa storia. Quindi era più punk di come ce l'hanno fatta credere. Sì. E quindi il suo reportage era un falso e fu lo stesso Cohn a confessare questa bufala, dicendo la mia storia era un imbroglio, e ha spiegato: non ho mai frequentato la vita di strada di Brooklyn, conoscevo a malapena quei posti, anche per Tony mi sono ispirato piuttosto ad un mod di Shepherd's Bush, che è un quartiere della zona ovest di Londra, che conoscevo negli anni 60, che a quel tempo era il re di Goldwack Road. Ma quindi per, proprio un miscuglio. Sì, per quanto fosse stato tutto falso, va comunque dato atto a, a Cohn di avere creato una vicenda insomma che ha fatto pure tendenza. Sì, insomma è importante. Invece per quanto riguarda le location, Fede, sono tutte qualcuna è ancora, esiste ancora, ancora così. Esiste ancora, a parte vabbè la discoteca che la storia è stupenda, vabbè il ponte di Verazzano esiste ancora. Ok, e fino a lì ci siamo. Ed è un ponte importante perché è stato non è il più famoso di New York né il più antico, ma è stato per 20 anni il ponte sospeso più lungo del mondo. Questa è una informazione importante secondo me da sapere. Per il Guinness dei primati. Ed è il ponte anche di partenza della maratona di New York. Oggi è scusa, così. È disimpegno, il disimpegno. La maratona di e New York. E poi se volete mangiarvi una pizza a New York. Nello stesso posto dove, come faceva John Travolta prima di prendere servizio nel negozio di ferramenta, potete trovare la pizzeria al numero 7305 della Quinta Avenue all'incrocio con la 73esima strada. Pizza italiana? Sì. Beh, la pizza è italiana, dai. Nel negozio si chiama Bay Ridge e ha il negozio invece di ferramenta che si chiama Bay Ridge Home Center, dove lavorava. Se vi serve un cacciavite dopo la pizza. Esatto. E si, ha cambiato gestione, però sta ancora là. E anche la casa di Tony Manero, ma soprattutto l'Odyssey 2001 è una bellissima storia. La discoteca dove Tony Manero si esibiva, si esprime, era al 802 della 64esima strada di Brooklyn e esisteva, quindi non è stato un artificio di scenografico, non l'hanno ricostruita. Si esibivano i Tramps, Carol Douglas, i Tavares, Gloria Gaynor, si è esibita insomma un sacco di personaggi importanti. La storia della disco music new yorkese è passata di là e è rimasto l'edificio in disuso fino ha chiuso i battenti, scusate, nel 1987 per trasformarsi nella disco Spectre che fu in attività fino al 1995, fu un luogo di ritrovo gay famosissimo a New York e poi è stato demolito, sacrilegio secondo me. E la pista da ballo dove Travolta danzava, appunto You Should Be Dancing, che abbiamo sentito prima, Dire Night Fever, il disco Inferno, è finita in vendita a pezzi su eBay. Come il muro di Berlino. Come il muro di Berlino. Saluto a Caterina che ha l'ascolto. Allora, Kool & the Gang, per quanto riguarda la colonna sonora di Night Fever, Saturday Night Fever, questa era Open Sesam. Apriti Sesamo. Apriti Sesamo. Anche dei Kool & the Gang. Ma lo sai che ho scoperto di Apriti Sesamo? Una versione di Peppino Di Capri e i suoi Rockers con Abrete Sesamo. L'hai messa sul cellulare? Sì, c'è. Un pezzo latino jazz veramente notevole. Strepitoso. Del bene, 59. Ci vogliamo sentire? Poi lo metteremo sicuramente. No, a proposito, stavo dicendo che sono tutti fratelli questi che hanno fatto la colonna sonora, pure i Kool & the Gang. Bella frate. E a proposito sempre del disimpegno, no? Perché visto che è un film, la personificazione nel cinema del disimpegno, allora io dico solo cose poco impegnate oggi. Allora, un'altra cosa poco impegnata e di poca importanza che ho trovato è che l'abito bianco usato da Travolta viene acquistato per $2,000 dal critico cinematografico Gene Siskel, che poi ha fatto, ho letto una sua recensione sul film, che lui l'ha visto 17 volte, dice. Che è il suo film preferito e che John Travolta balla come un pavone sotto anfetamina. Buono. Una bella immagine. Sì. Beh, insomma, lui si è comprato quest'abito a un'asta per si è comprato l'abito per $2,000 e poi dopo lo affidò alla prestigiosa casa d'Astes Christis, la quale lo vendette a sua volta a un anonimo compratore per il prezzo di $145,000 nel 95. Pensa un po'. E poi non è stato più battuto. Lui ci va in giro. Va in giro per il suo paese, non si sa qual è di dove era il compratore che l'ha comprato. Certo, anonimo, d'altronde. Sì. Però lo puoi riconoscere per la strada, puoi capire chi è se lo incontri. Sempre che lo porti. Sì, beh, certo, ma $145,000 io un vestito me lo metterei tutti i giorni, cioè con quello che l'ha pagato. No? Certo. E poi un'altra cosa, che però questa non è proprio una cosa di disimpegno. È un po' più impegnata. E il regista di questo film, John Badham, era il suo secondo lungometraggio. Lui veniva da una carriera televisiva e poi dopo non ha fatto neanche tantissime cose. E, le ha fatte, insomma, tutte modeste. Infatti, fu uno dei primi registi a usare la macchina a mano, la Steadicam. E, infatti le varie scene girate con questa sono molto particolari, molto belle. Per esempio la scena, la prima sequenza, no? Quando Travolta cammina, passeggia per le strade di Brooklyn e viene appunto seguito dalla macchina a mano, posta frontalmente o di spalle, poi da sotto, dall'alto, e mentre lui insomma cammina con questi piedi, bellissimo. Ed è stata utilizzata naturalmente anche per le scene da ballo in cui Tony e Stephanie vengono proprio accompagnati a passo di danza da questa cinepresa mobile. E poi un'altra cosa, questa invece è disimpegno puro, e stavo leggendo che non ci sono effetti speciali nel film, tranne Bill Ward racconta anche controfigure. Che c'erano le scene del fumo nella discoteca, no? Che dovevano essere eseguite con il fumo. Non era né ghiaccio né una macchina da fumo, ma bensì lui ha pensato di bruciare dei pneumatici. Ah, che figo. Che hanno creato delle esalazioni tossiche, per cui tutta la troupe si è sentita male per il tanto fumo che era stato creato, e a John Travolta gli hanno dovuto dare dell'ossigeno. Allora, il primo dei brani di David Shire, questa era Manhattan Skyline. Lui è presente con tre brani che sono poi i più lunghi e strumentali di tutta la colonna sonora e forse anche i più notevoli a livello compositivo. Sì, beh, insomma, allora David Shire è l'unico, diciamo, colto e non manifestazione di disimpegno di questa colonna sonora. È un, insomma, un grande compositore, ha dato vita a una serie di colonne sonore notevoli, ha lavorato tanto per il teatro. E di queste, delle sue musiche, Fede, sì, è vero, sono state inserite nella colonna sonora tre sue pezzi, ma in realtà ne sono stati registrati cinque per il film, ma che poi non sono stati accreditati. Lui è americano e tra le colonne sonore, insomma, più importanti che possiamo ricordare, insomma, scritte e composte da lui, quella del 74, The Taking of Pelham 1-2-3, The Conversation di Francis Ford Coppola, notevole film, e Tutti gli uomini del presidente, poi insomma questo, il film nostro di oggi, e tantissimi altri. Stavo guardando adesso perché non è che l'ho scritto tanto bene oggi gli appunti. Sono arrivata un po' in ritardo, che ci ho avuto tanto da fare e da lavorare, un po' in affanno. No, ma perché avevo letto anche altre colonne sonore che però mi sono persa. Lì leggo Zodiac del 2007, anche Apocalypse Now, pensa. Beh. Per dire. era un bel film. A parca mia. E poi, vabbè, adesso. Norma Ray, 1979. Sì. Insomma, è per Broadway, Funny Girl, Love Match, Big, che era carino. Beh, insomma, comunque un personaggio interessante. Anche la sua biografia è interessante, perché insomma ha iniziato questa passione per la musica da piccolissimo. Beh, sì, è un personaggio interessante ed è, diciamo, l'unico un po', secondo me, un po' più di spessore rispetto a tutti gli altri artisti che compongono la tracklist della colonna sonora della Febbre del Sabato Sera. Oh, l'omonimo brano dei Bee Gees, finora tra tutto quello che abbiamo ascoltato è l'unica canzone che ancora ascolto e apprezzo. No, io non ce la faccio più. Non ce la faccio più proprio. Non ce la faccio più, ragazzi. Non ce la faccio più. No, vabbè, sì, è un brano, sì, però molto ascoltato. Molto ascoltato. Sì, sì, sì. E poi c'è tutto un aneddoto su questa cosa del, sì, del, di questo pezzo, perché praticamente il film doveva avere un altro titolo. Poi loro hanno scritto questo, questo pezzo, e quindi hanno, doveva chiamarsi soltanto Saturday Night il film inizialmente. Poi loro hanno scritto questo pezzo, i Bee Gees hanno scritto questo pezzo, e lo dico un'altra volta, eh? Hanno scritto questo pezzo. E quindi il produttore Stigwood, Robert Stigwood, decise di cambiare il titolo con, e aggiungere Fever. Niente, Così. Piano piano, dai. Salsation era di nuovo David Shire. Che grande, che grande. Beh, sì, sì, che grande, notevole, notevole. E invece, sempre a proposito dello scenografo, no, prima parlavamo degli effetti speciali, adesso parliamo della scenografia. E la discoteca in questione, l'Odise, era una discoteca un po' di quartiere, quindi insomma non è che era proprio organizzata con le luci, le cose. Quindi lo scenografo si è dovuto inventare tutta una serie di cose per renderla un po' più cinematografica. E che cosa ha fatto il nostro scenografo, che adesso mi sfugge il nome? Ha fatto che ha ricoperto tutte le pareti di carta stagnola, abbiamo detto. Di carta stagnola. E poi ci ha messo, ha trovato delle lucette di Natale in giro per Brooklyn, probabilmente nel negozio di ferramenta dove di Tony. Le ha attaccate e ha creato questo effetto di discoteca meraviglioso. Se vi andate a rivedere il film, come non ho fatto io, ma mandate a vedervi qualche scena, fatelo voi, e oppure vi andate a rivedere qualche scena, che comunque vale la pena perché è un gran film, su YouTube. Vedrete che insomma la discoteca sembra una discoteca spaziale, invece era soltanto carta Domopak attaccata con un po' di lucette. E quando il proprietario del club rientrò nella sua discoteca, quando il film fu finito di girare, disse, teniamola così, lo dico in inglese. Dai, dillo in inglese. Holy shit, you guys made my place look great. Yeah. Era entusiasta. E stai parlando anche degli incassi, cara Ottavia. Sì, ma adesso non ero pronta, solo questa cosa. L'ho trovata. Continuiamo con le musiche. Sì, continuiamo con le musiche. Yvonne. No, Yvonne non ce l'ha data. Non ce l'ha data, ma adesso noi la cerchiamo sul tubo, come dicono i nostri amici di Attica. E naturalmente era il mio pezzo, Federico, il mio preferito, non so Federico. Non so cosa sai, sia successo, ma non incolparete. Mi va tutto storto, come dire, tutto storto. Però nel frattempo vi posso parlare degli incassi. Io quello volevo sapere, ma non è che adesso ti ho sabotato la musica per farti dire degli incassi. Sono sicura che non me l'hai sabotata, perché ti piace un sacco la musica che scelgo io, lo so. Però il film è stato un grandissimo successo al botteghino, ed è stato quello che ha incassato come film musicale la cifra più alta di quell'anno. Infatti incassò negli Stati Uniti 94 milioni di dollari e qualcosa di più, in altri territori più di 142 milioni di dollari e complessivamente oltre 237 milioni di dollari, diciamo, con le proiezioni in tutto il mondo. E beh, insomma, delle cifre notevoli. Oggi sembrano insomma bazzecole in confronto ai film più mainstream che escono e che hanno, insomma, fanno successo di botteghino, ma insomma per l'epoca era veramente tanto, e anche per adesso, no Fede? Sì. Just Yvonne Elliman, If I Can't Have You, terribile. Ma no, invece no, non è male, è bella, lei poi è bellissima, questo pezzo l'ha scritto... La bellezza non aiuta nella no, musica. No, però invece ha anche una bella voce, secondo me. L'hanno scritto i Bee Gees per lei ed è stata pubblicata nel 77 questa sua versione. Lei è, ne sono state fatte centinaia di cover, quindi tanto brutta fede non sarà, scusami. Come leggo tutte le cover, però ne sono state fatte tante. Comunque lei è metà irlandese e metà giapponese, perché il padre era irlandese e la madre era giapponese. È stata corista di Eric Clapton. Interessante miscuglio. Sì, ed è aveva interpretato con grande successo e con critiche molto positive Maria Maddalena nel musical Jesus Christ Superstar, e le sue doti canore, si può dire così, no? Sì. Sono state insomma messe in rilievo soprattutto durante l'interpretazione, ecco, non mi veniva la parola, di I Don't Know How to Love Him. E insomma lei ha avuto un grande successo con questo musical ed era veramente bellissima. Poi si è ritirata a vita privata, non ha più basta con lo show business, non si è più dedicata alla musica se non fino al se non nel 2004, quando ha pubblicato un album, tutto qua. E torniamo con i Bee Gees. Time. Staying Alive, Bee Gees nuovamente, ogni tanto sopra di loro andavano i pezzi che cercavo, che erano fallati chiaramente. Vabbè, ma ho preparato la puntata di ieri sera tardi. Piena notte, diciamo. Sì, dai. Sai che io non sono come te, io lavoro, Federico. Esatto. E vabbè, dai, a parte gli scherzi, invece questo... Io un paio di cose volevo dire. Di John Badham, che è un mediocre regista, sì. Era il suo, dicevi tu, il suo secondo lungometraggio, e lì è esploso. Sì. E lo ricordiamo per La febbre del sabato sera e per War Games. È per vero. Il resto ha fatto un sacco di cose, ma del tutto trascurabili. Tantissima TV. E poi per John Travolta. È stato il periodo d'oro, perché la febbre del sabato sera 77, il 78 Grease. Lo facciamo pure Grease. Mi piace Grease. Un sacco Grease. Certo, è molto molto monotematico. Sì, moltissimo. Invece questo. Più di questo. No, invece sì, e infatti anch'io mi sono dispiaciuta, perché invece secondo me poi questo film ha un suo perché. È anche un film un po' di denuncia, comunque di un certo periodo così, appunto, dei copertoni bruciati. Edonista, no? Un periodo così edonista in cui era più importante apparire dopo tutto quello che era stata l'America, no? Impegnata della politica, eccetera. E invece questo film è proprio racconta proprio l'inizio di tutto ciò che poi è destinato a diventare qualcosa di commerciale e di privo di sostanza, no? Però nel suo film, al contrario di quello che mi dicevano oggi qualcuno, nel suo film lui ha cercato di denunciare proprio questo vuoto, ecco. Anche con un soggetto che forse era un po' leggero, eccetera. Ma con chi ne hai parlato? Ne ho parlato con una persona qua alla radio. Non facciamo nomi, però. No, dai. Non li faccio i nomi, okay. Anche perché è una persona molto importante, probabilmente poi dopo è molto amata dalla radio e probabilmente lo amerebbero meno. E siccome li voglio bene, non voglio rovinargli. Brava, mi piace il tuo Non fare. Voglio rovinarlo. Okay. Ecco. Senti, qui è arrivato già Gianluchino, e sì. Quindi prepariamo l'ultimo brano prima dei saluti. Tu non vorrai un altro David Shire, tu volevi Disco Inferno. Io te la sono andata a recuperare su YouTube, perché neanche questa l'avevo messa bene, neanche questa l'avevi messa bene, ma non te ne vogliamo. No, e a questo punto i saluti li fai tu. Sì, saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno avuto la pazienza di starci a sentire oggi, e ci sentiamo anche. Perché la pazienza, pure il piacere, perché insomma, ma non lo so, perché oggi era il film, era un po' così. Anche se a me mi è piaciuta, io ho ballato. Sì, non t'ho visto. A me mi hanno mandato pure un sacco di messaggi. Lo vedi. Senti, io mi chiedevo, ma la posta elettronica, per esempio, tu la controlli? No, se noi la continuiamo la a dare, mai. Ma che la continuiamo a dare a fare? Noi diamola, perché non si sa mai. Che è? Tracce di cinema? @ondarossa.info. Brava. Per sottoscrivere? Per sottoscrivere potete farlo attraverso il conto postale della radio, che è il numero di conto corrente postale della radio, che è 6180 400 1. Non lo sai ancora a memoria. A Cooperativa, no, invece lo so. Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00185, Roma. Lo leggo perché voglio essere sicura, Federico. Bravo, ma bravo, lo so a bravo, memoria bravo. E poi potete sottoscrivere alla radio, che ha un gran bisogno, quindi non è importante quanto voi potete aiutare questa radio, ma che lo facciate comunque attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info. Trovate tutte le coordinate per sottoscrivere in modo più veloce, attraverso con la carta di credito. Mi raccomando, sottoscrivete, mandate un contributo, perché questa radio continui a trasmettere. Sono 40 anni quest'anno, ma vorremmo continuare a trasmettere all'infinito. E ci piace l'idea di trasmettere e di continuare a trasmettere grazie all'aiuto di chi ama questa Perfetto. radio, e quindi di tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Ci risentiamo giovedì prossimo con Tracce di Cinema. Ho una proposta poi da farti sulla puntata di giovedì prossimo. Non ci lasciamo quindi con David Shire, ma con i Tramps, Disco Inferno. Sì, un'altra cosa sempre all'insegna del disimpegno, come è stata questa tutta la puntata di okay. oggi. Ciao.